10 e nessuna gatta. Qualcuno 27075 qui Alfa 21 da questa parte, o per Torre Riccardo, c'è qualcuno sul 27075 o canale 10? 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, canale 10, 27075, Alfa 21 da questa parte, c'è qualcuno sul canale 10? Tutti scappati, Jed! Minchia Riccardo, dici Rizzo, come stai? Buongiorno, però svegliatevi! Minchia Riccardo, in giro sei, Dimmi subito il tuo QRI, QRZ. Già vediamo se così mi riconosci, Ho una memoria corta, sto pensando troppo allo studio. Studiato sei, Cirizio, bravo, Cirizio, bravo. Dimmi subito il tuo QRZ. Abbiamo aspetta questa, Alfa 21, 51, 71, 1. Ciao, signor Master. Dove sei, Riccardo? Fatto pampa, fatto compiti. Sì, sono venuto a trovare e sono stato facendo compiti. È per questo che non sono entrato neanche stamattina. Va bene, va bene, bisogna andare avanti nella vita, la radio è un complemento, non è che si deve assorbire tutto. Ok, tanto lo so, io stavo facendo una chiamata e che sono, come dico sempre, sono tutti in ascolto e che non ne hanno voglia di entrare. Ci hanno il dito seccato, capito? Ci hanno il dito secco. Quando vogliono però quel dito lo fanno funzionare mettendo portante. È la storia del mondo. Quando ne hai voglia, quando non ne hai voglia, e rompi i coglioni, quello tranquillo, sempre così. Sicuramente c'è qualcuno in ascolto. Vero, attenzione canale 10, attenzione canale 10, attenzione orecchie di porco. Claudius Sparvierus, lo so che sei in ascolto, tu hai sempre la radio accesa 24 ore su 24. Avendo il Sparviero se ascolti e scucci questo canale d'ampio, o come si diceva un tempo, allo passo. Tanto lo so che siete tutti in ascolto, alcuni state anche riposando, ma siete svegli. C'è la radio lì a volume basso, o magari a volume zero, tanto c'è lo smitter davanti, e quando vedi che si muove lo smitter, oppure c'è sbagliato, capito? Senta la voce, diciamo, sentiamo cosa si dicono questi due, va? Lo so, ma dopo il pranzo non si deve dormire, che poi hai tutta la roba sullo stomaco. Invece meglio stai alla radio, ti fai un bel corteo e poi dopo che hai digerito vai a dormire. Scappa, anche questa è una bella teoria. Stamattina ho conosciuto il verticale Giovanni Franco, che personaggio! Dico la verità, Giovanni, scusa se sei in ascolto, è molto più vecchio di quanto me lo aspettavo. Vero? Alla sua età, però devi vedere quanto è attivo, via tappeti, è un bravissimo pittore, fa delle microsculture, ho visto un po' di roba, ha tutto il suo armamentario, una vita molto, molto complessa, poi va in campagna, tutto, cioè, lodevole, 83 anni. Sì, lo so, anch'io l'ho conosciuto, ho visto che faceva un bel po' di arte nella sua dépliante. Cosa che faceva? Lo so che dipingeva, faceva sculture, mi ha dato il dépliant che in quel dépliant faceva vedere tutti i disegni che faceva, le pitture, capito? Sì, anche a me. Media, no? Una cosa molto carina, ma che mi ha dato? Smettila, finiscila. Misto. È sufficiente così la radio, Ricca? Non lo abbassa un po', non lo abbassa. No, vai benissimo la radio. No, l'ho sentito, si stavi innescando poco fa. Sì, ho fatto solo lo speaker lì, perché non mi stavi ascoltando. Quando facevo pausa, vedevo che tu finivano i picchi e iniziava una cosa strana. Cavolo di innesco. Perché questa radio pompa, pompa, pompa. Ho capito. Forse so già che radio hai, per caso hai un K o hai sempre quella cosa senza smitter? No, allora, questa è una mia bellissima radio, 23 minuti, proprio prima edizione, che fu smanettato gemello a quello che al tempo era, con quello al tempo che era la mia ragazza, cioè avevamo l'apparecchio uguale, nato uguale, modificato uguale, di tutto, di ogni cosa, anche il frontale, due radio gemelle erano, però poi ormai dovevo partire, eccetera, un amico che chiedeva da anni, gliel'ho dato, l'ha tenuto 20 giorni e l'ha sfondato, e l'ho dovuto tutto rifare il mese scorso. Ah, oh, ho capito. Sì, comunque, preferisco la cartolina di trasmitter, è che non vi vedo, perché con lo smitter devi segnare tutto, per fare un controllo, però con la cartolina piccola, piccola, omologatissima, 4 watt va benissimo, tutti dovremmo usare una cartolina così, e vedrete che non c'è uno slatter, si riesce a parlare bene, basta una bella antenna, una cartolina, sì, in regola, in ordine, è tutto, e va bene per tutti, capito? Registrato, avanti. Dai, buonasera a tutti, ciao Riccardino, ciao anche Fabio, Belcentitti, cordialità, è la stazione doppio room, avanti. Gianni, hai una radio diversa, hai messo qualche altro apparecchio? Adesso sto usando il Galaxy. Ah, ho capito. Avanti, Fabio. Cappa Gianni Capol. Bello il Galaxy, era il mio sogno, solo che mi ha deluso di eccezione quando lo avevo preso, però bello, cioè avere davanti quella stazione, guarda come ci bene poi. Qua va benissimo tutto, ricezione e trasmissione, è un cannone questo qua, c'è una ricezione che sembra stereofonica. Infatti quello era il problema, siccome io avevo Daniele da nome, senza dire se non sappia, a 30 metri, non c'è il nome suo che mi fa ombra. Lui anche se era spostato di tanti canali comunque sia, cioè gli sblatterava tutto, cioè sembrava che parlasse a riunificate, capito? Purtroppo l'ho pullata, mi ha preso deluso, però bellissima, cioè oggi come oggi che siamo a 4 gatti in frequenza sarebbe il mio apparecchio ideale. Sì, ma dire mai, ce ne sono in vendita. C'è anche quello che c'è con 100 watt, il Galaxy Turbo. Sì, ho visto, ma adesso ne vogliono 500 euro, io la mia, in perfette condizioni, proprio in libata, mai cacciavizzata, mai aperta, l'avevo venduta mi sa per 200.000 lire, 250.000 lire, ma in condizioni di scatto, va bene. La mia è così, la mia non c'ha le graffi, niente, mai aperta, nulla. Anzi, ma la mia, una volta l'ha aperta perché vi è partito un transistor e l'ha cambiato, boh, basta, tutto. Avete parlato insieme, la cosa bella che avete iniziato insieme e finito insieme, tutti e due, frutti, avanti Gianni e poi Riccardino, dai. Paga, perché Riccardino ancora non ha capito che bisogna aspettare che li rilancino il mic, vabbè, avanti Riccardino, riprendi tu. No, dico che se ne avevo visto anche che c'era un Petrus, che più o meno è uguale, non vero, non cambia niente dal Galaxy. Cambia, non c'ha frequenzimetro il Petrus. Ah, non c'ha il frequenzimetro. No, ce ne sono Excalibur, ce ne sono tanti che hanno copiato dal Galaxy, però sono diversi, solo il 555 è uguale al Galaxy, eh? No, ho capito l'Alan. Ma li ho visti in giro, compresi un po' altini, per come la penso io, anche se va bene, non è che mi metto a cambiare l'apparato. Se guardiamo bene le cose, Gianni, abbiamo la parete uguale, solo che tu hai il frequentimetro e l'hai diventato incorporato. Poi la scheda TT6 è la stessa. Tu che apparecchi stai usando? Un TT6, un 3620 canali. Io ho il 3009, però adesso stavo restaurando il microfono, ti stavo facendo, guarda quanto sono pignolo, con uno stecchino tutte le parti consumate, con la pittura piano piano, e ho fatto tutto quanto a nuovo. Io ho fatto così questo 3006, che in realtà appare un tornado 34 ore omologato, a vederlo, figurati, poi col pennarello nero con la vernice, gli ho fatto un po' di bottini in maniera tale che non si vedesse, l'ultimo passo che devo fare è catavetrare, portare a zero anche silicone, base gli do, sicuramente gli do una base, e poi gli rifaccio nero le carcasse, ed esce gioiello, gioiello, gioiello, anche io sono un rompiglione già. Io ce li ho tutti così perfetti, sono pignolo io, cioè non vedo una cosa come piace a me, la stazione praticamente quando ho comprato questo 3009, che praticamente l'ho preso pochi giorni fa, ho dovuto catapultare tutta la stazione, non mi piaceva, l'ho rifatta due o tre volte, cioè quando ho visto bella, che era bella piena, sono mollato. Un altro Riccardo che mi sta organizzando tutto, visto che Roberto una mattina mi spiegava un po' come faceva la stazione tipo la sua, con le mensoline, tutto ordinato, il block note davanti con la penna per prendere appunti mentre parti. Ma la facciamo la stazione bella ordinata? Sì, la facciamo la stazione, adesso come ho detto devo vedere come organizzare una, perché al posto di quella scrivania che mi ha dato Roberto forse ne ho viste una che fa più a casa mia, che è angolare, che così ho più spazio, visto che è angolare ha più piani e almeno si adatta, perché io dove la voglio mettere è proprio c'è un angolo e quindi quella andrebbe meglio, la devo prendere così. Come metto quella, mi prendo anche l'antenna, me la piazzo sopra casa e porto tutti gli apparati dentro e ho finito. Ma io oltre come si dice la rubrica con la penna, col cassettino mobile eccetera eccetera, con il piano mobile, per intenderci tipo quello del computer, lo tiro fuori, ci appoggio il microfono eccetera eccetera, ci metto anche l'agenda, c'ho il diario di stazione che ho sempre fatto io, adesso l'ho mollato un po', però c'ho il diario di stazione con tutto scritto, segnale che ti arriva, da dove parla eccetera eccetera. Anch'io ho fatto così, qui in garage mi ero organizzato, ho preso due agende, una perché aveva le mappe e mi insegnavo i punti dove facevo queste ore, e poi nell'altra mi insegnavo tutto, che apparato aveva, dove ho collegato, a che ora, su che canale, tutte queste cose. E io c'ho proprio il diario di stazione, se tu puoi dire invece a che ora ha parlato quello, io dico allora che ha parlato, con che segnale arrivava e tutto. Però non le sto più facendo, mi sono un po' stufato, perché dovevo stare sempre a scrivere e quando ero sdraiato mi dovevo alzare, allora l'ho lasciato perdere. E ho capito. Beh, capa, anch'io tempo fa prendevo appunti, adesso magari un po' di meno, anche perché la stazione è arrangiata e in via di modifica. Dunque si arriva sul pezzo, si metterà una signora antenna, tra virgolette, un'antenna che posso tenere di peso e di vento, e le calasse per arrivare giù, e gli apparecchi messi un attimino più in ordine, anche se sinceramente io parlerei tranquillamente con questo scatolino 10x10, che anche se è tecnologico, digitale, CMD, tutto questo di tutti i viaggi, secondo me va benissimo, benissimo, adattissimo proprio. Sì, diciamo che io me la metterei direttamente un'antenna buona, così poi non ci pensi più, mettere un'antenna come si deve, con i tiranti e tutto. Sì, già, il posto, è che ci dà il palo, fino a c'è la mantella. E te? Dimmi a scatto. Non parlo più. Aiuto. Oh. Niente. Oh, questi microfoni, a seconda di come chiamano la batteria, 9 e 6 che si fanno i cavoli d'oro, Uffa. Che microfono c'è? Questo è MSC, poverino, ma povero microfono, è già un miracolo che sta uscendo. Io sto cercando un M300 da farma nuovo, però che vada bene, che lo voglio mettere qua sul coso, sul 2009. Ottima resa, vabbè, il 2009 il suo, ma anche gli altri hanno questa bella cosa, hanno miliatore, certificatore che si adatta praticamente a tutti i microfoni, cioè di rado senti che c'è un microfono che non brilla con il 3009, 3006 Galaxy, che parliamo sempre della serie TTC, cioè sui questi paracchini, anche se magari sarà in maniera un po' diversa, magari nei Galaxy ricordo che c'era un finale un po' diverso, ma lo stesso li puoi cambiare, capito, tra 3009, 3006 Galaxy, Tornado, eccetera, siamo sempre lì. Bella scelta, l'M37 con 3009 per avere una radio veramente stereofonica. Ma io ne ho uno simile all'M300, c'ho il Proxel che ho praticamente modificato io e adesso te lo farò sentire con 3009, vediamo un po' se ti piace. L'ho modificato io, capsula diversa e varie cose le ho fatte, perché non si abbinava alla mia modulazione, rimaneva leggermente cupo, allora ho cambiato anche la capsula e questo qui dovrebbe essere di uso. Aspetta, vediamo un po', adesso lo piatto così almeno te lo faccio sentire. Vai, ricambi. Non ho capito di che microfono stavate parlando, di che marca è? È un Intec M300 palmare e io ho la versione da tavolo che si chiama M600. Praticamente i circuiti di amplificazione sono gli stessi, solo che io ho anche una regolazione un po' diversa dell'eco, e poi ho la portante fissa, un Roger Tip finto perché lo devi premere sul contatto, anzi guarda adesso e ti faccio sentire il suono di questa cagata che c'è dentro. Ecco, sembra che stiamo reso, però i microfoni sono praticamente uguali. Ho capito, sì, è brutto quel tip finale. Poi io ho visto che di solito tipo il tornado che ho diversi barattini, che di solito come molti la portante dovrebbe farlo a solito. Questo cosa lo devi spiegare? Ho fatto, questa qua devi premere il tasto per fare il suono e poi mollare. Ma che storia è, ragazzi? L'oggetto deve essere automatico. Questa è una cosa veramente brutta. Questo microfono, se devi vedere quanto è bellino a vedere, tu ricambi, perché hai laterali cromati, anche tu gli occhietti, non so che ce ne abbiamo fatto vent'anni fa. Poi ha le regolazioni con gli slider davanti, perché tutto i mobili, no? Non la rotellina, non so che spingi a destra e a sinistra. E poi c'è anche lo strumentino, che ha un piccolo slitter che si alza quando parli. Io se ci ho messo un led per illuminarlo, è anche bellino con i microfoni, storie. Parliamo sempre di cose, insomma, che la Intec ha fatto un po' di economia. No, un microfono serio con queste caratteristiche ti costa due baracchini. Hola, attenzione, canale 10. Mi stai spaccando il timpani. Come va? Questo qua l'ho modificato io. Tu io, Fabio. Bello forte, sì, portato di eco, eccetera. Ma io ce l'ho un sottofondo di eco in questo momento. Cosa? Io ce l'ho un po' di eco sotto. Ho negativo. Perché questo pulsante si capisce. Pensa un po' quando è parlato. Comunque bella radio è potente, bella calda, sì, bella, classica radio eco proprio. Vabbè, a questo microfono è uscito bene, mi sa che lascio questo qua perché forse è meglio dell'MD più 5 questo. Non mi provocare con l'eco, Vabbè, se lo tocco l'eco, guarda se va meglio o peggio. Con l'eco non va male, non è sgradevole, capito? Non è. Anzi, secondo me ti alza una pena di più livello anche. Scappa, guarda adesso, 1, 2, 3, c'è l'eco. L'ho sentito poco. Aspetta che ti alzo un po' il volume. Prova a farlo passaggio. Guarda, 1, 2, 3, guarda se c'è l'eco. Scappa che c'è, è anche un po' bassino, così non da fastidio. Si sente bene. Se cambi, riprendi tu, dai. Sta andando bene, sì, è forte. Rispetto all'altra, stai andando molto più forte, anche di radio, mi stavi spaccando i timpani. Questa qua è l'ultima che ho preso, quella che ho preso da Eugenio. Ho capito. Paga. Adesso l'altro microfono è restauro, vai. Stavo restaurando. Devo mettergli solo una vittina nel coso diciamo nello spinato del microfono, devo metterle una vittina, perché quella vittina piccolissima mi è caduta e ho dovuto comprare un altro spinotto per prelevare la vittina da lì. E cosa devo fare? Se non rimane senza vittina e poi si muove tutto. No, vabbè, praticamente ci dà un giro di nastro del cacciforte e in teoria potrebbe non scappare dal connettore, però ci vuole la vittina già, no, fatticcio. Non mi piace, non me le serragatte, non mi conosci tu a me. Non mi piace vedere nastro, io il nastro lo uso pochissimo, uso termorestringente, perché il nastro non lo uso quasi nulla. Io di nastro ne consumo chilometri, ma consumato, perché per i cablaggi, per le tubattine eccetera, ti do il nastro intorno. Quando ho finito di passarli le vicende, cioè tra forbici e ne butto rotto gli interi. Infatti il mio collaboratore mi porta a casa, se ho capito perché gli ho chiesto 100 euro in più a quello, sono 100 euro di nastro. No, io uso termorestringente, la guerra termorestringente che è molto migliore, fa il lavoro più perfetto, lo si scolla, la scaldi appena col fiamme con l'accendino, la restringe e diventa bella, dai, sembra un filo. Scappa, se guardi questo microfono c'ha la guanetta rossa che esce da lui e la guanetta rossa che entra nello spinotto che va al baracchino. Sempre con le guance, io le uso da sempre, anche perché ti puoi immaginare, facendo impianti in auto, e facendo allarmi, oltre che a stereo, e telefonia, cioè devi essere ordinato. Ogni volta apri la macchina, che magari non ha messo in moto per fare il furto, o dell'immobilizer, eccetera, ci deve essere passato qualche elettrauto, che hanno tanto di segna grande, gigantesca, elettrauto, mica in lunga, no? Entra in mano a loro per fare le prove, per fare le misure, prendono, tagliano i fili, hanno finito di fare la misura, quando va bene li rimettono insieme con le dita, tipo nodo, e ci hanno un giro di lato sopra. Dopo un annetto, quello rimane a piedi. Quindi tu saresti in grado di farmi un impianto nella macchina nuova che ho e mettermi il cavo elettrico per attaccare l'apparato? Per attaccare l'apparato? Certo, se tu hai già idea di dove mettere l'apparato, eccetera, si passa col cavo, direttamente alla batteria, si ritirato, insomma, una cosa più che recente, immagino che tu voglia fare, conoscendoti, iniziando a conoscerti. Sì. Una cosa fatta a regola d'arte, perché secondo come va me lo metto in macchina, tanto ne ho uno in più di apparati, e uno me lo mette in macchina. Ecco, che apparato è quello che vuoi mettere in macchina? Alla 48. A 42 ampere. Modification, te lo faccio ascoltare. Lui quanto ampere assorbe? Non lo so, perché diciamo che ti dà 2 watt, c'ha di uscita. Ah, 48, potrebbe avere 4 watt, 2 ampere. Ma l'ho abbassato io apposta, capito? Ah, capa, insieme alla 48, allora ci vuole anche il riscaldamento automatico della macchina. E allora il cavo va dimensionato in base al riscaldamento, non all'apparato. ma anche all'apparato, perché doveva l'elettricità anche all'apparato. Ora te lo faccio ascoltare, va. Questo ti è piaciuto, l'hai promosso questo qua, la radio è bella, squillante, bella corposa. Guarda, non è una radio, è un CD, va bene così. Tu che sei, che c'hai un'acustica buona, dai, buona, dai. Poi ti faccio ascoltare con un MB più 5 per vedere se preferisci questa o quella con l'MB più 5. L'Italia non ti conosco di persona per vedere la fedeltà, però così com'è la radio fa effetto. Sì, perfetto, bella, forte, corposa, potente, penetrante, che è quello che serve. Perché se arrivi un po' lontano, in Santiago è basso, c'è una radio così alta, ti sentono lo stesso, capito? Ho sentito che fischi sotto, avanti. Anch'io li ho sentiti, avanti, che fischia, questo vignolo. Ma com'hai? Ho pensato, va, solo io li ho sentiti. No, no, li ho sentiti anche io. Il picchiatore, e ce ne sono in ascolto di qua, come dicevamo, tutte quelle di porco sono. Già lo so. Comunque anch'io ho stato ascolto. Quando sono andato su PH, c'ho il portatilino che è il suo ricevitore, no? E così mollo lì a volume basso, magari, sempre che c'è chi non c'è, cosa ti dicono. Anche se ho ascoltato qualche volta dal portatilino. Però quando ho la possibilità di uscire, dopo un po' che sto ascoltando, e io non dico che mi sento in colpa che sto ascoltando, però mi piace che sappiano che io ascolto, capito? Allora magari entro e dico, beh, io ho le mani occupate, mi stavo ascoltando, rimano il QRX, vi saluto tutti. Ho capito, anch'io penso so anche io un ascolto qualche volta. L'importante è ora, non ho pure con il baracchino, perché ho fatto un altro bunker su tutto, ho portato dei baracchini. E ho fatto un po' di ascolto con un Elder, che mi ha fatto l'Elder, non so se l'hai conosciuto, che sembrano dei mattoni. Attenzione, binario 10, cambio! Questo è l'apparato, caro mio. Allora, secondo me la voce è bella penetrante, hai un'abbondanza di frequenze medie, perciò sei su un chilo, come avete sentito riconosciamo dal telefono, però hai meno bassi con questo già. Ma questa è la radio profonda, arriva da tutte le parti, vero Riccardi? Sì, concordo con te e anche con Fabio, che è buona la radio, comunque è potente, penetrante. Va bene, secondo me, per la mia opinione, perché sennò poi ci sono delle discussioni. Attento Riccardino, se ascolti il doppio rum che parla, cambi. Ascolto, cambio. Quindi, ho detto va bene, ma non c'è nessun altro che vuole entrare? Se Fabio se ne andasse, siamo rimasti solo noi due, non vuole entrare nessuno. Fabio, se vogliono entrare e fare il break, Riccardi. Adesso ho tolto l'eco, come va? L'eco non perdisco, ma mi dava un po' di fastidio, così mi piace di più. Ah, perché l'eco si usa per le lunghe distanze, dai. Sto uscendo con un watt e mezzo adesso, capito? Un watt e mezzo, come ti sto arrivando? Riprova che stavo facendo altro, vai un altro passaggio. Hola. Un watt e mezzo di portante, cambio. 9,20. No, non sto arrivando male, dai. Però per un watt e mezzo va benissimo. Sì, già sta andando bene. Poi proviamo l'altro, proviamo l'MB più 5, so. Ma non lo usi quasi mai il Cobra? Sì, anche il Cobra uso. Sto cercando un microfono da adattarli, Riccardi. Dovrò fare qualche altro microfono, se busco quello che voglio io ti faccio uscire tutti uno più bello dell'altro. No, ma cos'è? L'attacco sembra 4 pin o un attacco diverso? No, sempre qua, cioè io ho la fortuna di avere tutti gli apparecchi con lo stesso attacco. posso girare i microfoni da uno all'altro senza problemi. Ah, ho capito, è buono. Io ho diversi con diversi pin, ho il K con 8 pin, poi ho il Mobi con 6 pin, poi vabbè, gli altri comunque sono 4 pin, per meglio. KK. Poi a Fabio le faccio sentire anche l'altro, il Magnum PI. Ah, il Magnum, l'S9, ho capito. Ma ho visto, tu non gliel'hai attaccata alla fine la bandiera? Ma non mi piace. Ce l'ho, però non gliel'ho piazzata. Non mi piace. Non mi sembra un rozzo, buh. Ah, ho capito. Oh, non per dire, ma secondo me frattanto, ne ho trovato uno di S9, ne vuole 800 euro. Il mio non è 9, è 980, è meglio dell'S9. No, ma io dico l'S9 normale, 800 euro. Allora, l'S9, c'è una partita di S9 che è riuscita male, che c'ha il difetto al frequenzimetro, capito? Parte il frequenzimetro, cammina da solo e ti fa andare fuori frequenza. Ah, ho capito, l'S9 normale. Ma è una partita, mi pare che sia la seconda serie. Ah, cappa. Vabbè. Aiù, non entra Fabio. Fabio, lascia il telefono, aiù. Ma fino a poco fa avevi una radio di diversa, che cosa hai fatto? Cambiato apparecchio. Sì, e così si può per la terza cosa. Una radio diversa in che senso? Con l'eco? No, che prima eri un po' più basso di radio. E perché sto parlando vicino al microfono? Ecco cosa ho fatto, prima era lontano. No, ho capito, no, comunque andavi bene. È che ho sentito proprio che era diverso. Attenzione Riccardino, se ascolti il doppio rum che chiama, cambio. Gianni doppio rum, poco romane. E sentite così che io mi allontano al microfono. Adesso mi allontano al microfono. Adesso sono di nuovo vicino. Poco romane. Se no ti regalo la bandiera. Ah, ho capito. Vedo, perché adesso intanto sto vedendo questa storia del K e poi, visto che non me ne passano mai di baracchini a baracchi, mi è piaciuto l'S9 ho capito. Sì, mi piace l'S9, l'ho visto senza bandiera, o mi piace molto, mi piace più con la bandiera. Vabbè, sono gusti. Mi sembra un po' di rosa con la bandiera, per quello non gliel'ho messa, mi piace più naturale. E infatti è una questione di gusti, poi tu c'hai la passione per l'America, quindi come tuo padre. Oh, la becco. Avanti. Ma sei un cuocuomane, mi doppio rum, adesso ti distruggo, a te a quel Riccardino, più cuocuomane di te. Sì, a quel cuocuomane di Natalino. Natalino, gabbia. Attenzione, Natalino, Alfa 1, si ascolti il doppio rum che parla, gambio, gambio. Beh, se me ne lagga questa cosa, che mi stai dando fastidio. Qua. Me lo siamo in affu. Sì, avanti. Io distruggi da questo doppio rum. Raga, hai detto che mi sto dando fastidio, avanti. Dove spatte la TV dal 23 non vi dico nulla, quindi. Neanche io l'ho capito chi era. Dillo Riccardi. Me ne ha fottuto, a me quando mi disturbano sul 23, dal 23, si da qua, io non dico mai niente. Ma io non viaggio con te come, oggi tu giuro buffonennemi, disgraziato, ciao Gianni doppio ru. Pure gioca buffonenni, e te lo so guizzendo, però. Disgraziato che sei io. Tu mi sono specialmente tu mi splatti, quando parli tu, sento gli splatti, devo cambiare apparato. Vai, non è vero, non è lì. Catta, esco con 2 watt, esco. 2 più 00, 200 watt. Oh, sono pulito, sono neo di quelle cose, io non ne uso. Mi splatteri, se sei sul 23, sul 10 mi splatteri a volte, secondo con che apparato sono, se sono con questo, con la LAN 48, lo devo giambare, che se no mi splatteri. se invece sono col gala si basta chiamare appena appena le riferire, non ti intendo più. Boh, se fosse fossi io. Certo. Gli fai salutare i goi. Uffa. Avanti, avanti, che sennò Natali, buonasera, che sennò si arrabbia. Cos'è questa cosa di tutti, eccetera? Basta di turbare la vicenda, sennò di voi io sapete come funziona. Se mi rompete le scatole, salgo in un certo posto e prendo una certa scatola. Hai visto, anche la portante ti mettono. Se mi disturba glielo su io, cosa fai? Io via, se attacco una certa cosa ti ripigli le cose, se pure sa facile le fighe. Eia. Ma ripigli più tu i colpi se ve li acciappati da buio. Se li ripiglio a vero, se vi acciappano i nocchi qua, solo trovandolo qua, guai. Invece io non c'ho nulla e faccio prima. Che segretaria c'hai da tanto? Sì, una americana. Ce l'ho sempre avuta, ma è meglio non attaccarne, che a parte che qua non la puoi attaccare. Perché se l'attacchi scatta il contattore. Quanto dà? Quanti watt dà? Pochi. Che bambuli, 600. Cosa so, 600? Beh, cambia apparecchio, così li faccio girare tutti. Natalino! Natalino, ci sei? Ma ci sono! Rispondi quando ti chiamano! Sì, già riprendo, ma il fatto che questo qui c'ha un secondo di ritardo quando schiacci e molte volte non esci, se no devi aspettare un secondo e puoi parlare. È fatto così? Ho capito, va bene. Tutte volte che vi prendo mi schiacciate, proprio per quel motivo lì, perché va in ritardo. E quel Gianni, lo sa come si è svelto schiacciando il microfono? Ho capito. Poco fa stavo chiamando e non c'era il verso. Né tu né lui mi sentirà. Perché vi prenderate prima, capito? Lo so, me ne dico sempre, anch'io devo lasciare un attimo di bianco. Invece Gianni schiaccia ed è quella la canzone. Bianco non era caduta. Eia, va bene. Sei ancora master? Gappa di gappa, sempre limitato perché tutto per passione di sempre. Sarà colpa mia. Era attore, c'era anche. Sì, Natalino sotto, mamma mia, mi vuole vedere ma non lo sento, ragazzi. Natalino, Natalino bello. Natalino, non lo senti a master? Attenzione, canale 10, cambio. Sì, ma lo saluti Natalino. Sì, avanti, avanti. 5. Non ho capito master, ti hanno schiacciato, ripeti? Sì, che mi schiaccia, ricordo l'antenna lì. Se li saluti Natalino per favore, che siamo 25 anni e che non ci vediamo. Natalino, ti saluta Fabio Master, faccio da ponte. Io non lo sento a Master, capito? Comunque ha detto che ti saluta. Ricambia, ricambia da parte via, c'è entrato Tamano, Gianni, Tore non ha risposto, boh. Fabio, mica ha detto Natalino che cambia, ricambia. Grazie, grazie, ma ci sentiremo in questi giorni, anzi che stanno adesso di Capompugno e ci troviamo, ci prendiamo caffè insieme, che sono quasi 30 anni che non ci vediamo in Natalino, figurati. Allora io devo fare un attimo di bianco, vi lascio in QSO e ci sentiamo tra un po'. Master, questo è l'S980, come va? Diciamo che ti fa sentire bene, però la modulazione bella che hai con 39 con quell'altro microfono che hai toccato tu non ce l'hai più. Scappa, dai, ne sto provando tanti, poi proverò il Cobra, ti piaceva più l'altro, hai detto. Sai quando passi da un apparecchio audio, no? A transistor, molto preciso, dettagliato, eccetera, a un apparecchio a valvole, che magari ha un po' i suoi difetti di dettaglio, quello che vuoi, però è più morbido, Hola. Calmo, piacevole sui video bassi, capito? si è passato da avere una modulazione così bella morbida a una modulazione più incisiva, però più fredda. Non lo so se tu hai la voce così naturale. Cavala, aspetta, Bianco, per me, dai, saluto, ci vediamo dopo. Hola, va bene così, Natalì. Io me ne faccio il quello che abbiamo fissato. Ehi, va bene, ciao, ciao. Oh, Gianni. Sì. C'è un innesto sotto, dimmi un po'. No, negativo, prova a fare un passaggio lungo. Vedi un po' se c'è qualche cosa sotto che sta innescando. No, negativo, prova a schiacciare senza parlare. No, non c'è niente, Gigi. Non c'è niente. Va bene così, non lo vendo più l'apparecchio, ho deciso. Gappa. No, lo stavo mettendo a posto questo, però sta tenendo un'altra radio mi innescava, volevo capire, era così, va bene, dai, ti ringrazio. Cava, va bene Gigi, non c'è problema, siamo qua, se vuoi restare c'è anche Riccardino, il nostro mascotte della frequenza. Cappa, no, è che stavo mettendo a posto l'antenna, l'ho buttata giù e poi l'ho ripiazzata perché mi serve un casino di stazionare, capito, e l'ho rimessa a posto. Niente, l'ho scesa e l'ho rimessa a posto, stavo mettendo a posto un baracchinetto adesso e niente, ne sto mettendo a posto un paio, dai. Comunque com'è come radio? È un baracchino normale questo, è un 40 canali credo, 34 forse, adesso non so se è 34. Comunque com'è come radio? No, già è buona Gigi, aspetta che attacco la colonnina e ti ascolto in colonnina. Positivo, Riccardino ci sei? Sì, positivo. Mi ascolti bene tu, solo un baracchinetto normale? Sì, ti sento sempre bene, adesso sei 9:10 radio 5. Ma se li vale 30 euro questo baracchino, cosa dici? Sì, positivo, se li vale. Che baracchino è? Oh, Zodiac, ma l'altro era vecchio, sa quanti anni già, e lo stavo ripristinando, dai, lo stavo mettendo a posto, capito? Lo sto rimettendo a posto, è un baracchino vecchia data, dai. Solo i canali, cioè, l'FM e i canali normali, dai, e basta. Ah, ho capito, no, comunque stai andando bene. È positivo, e poi c'è un grande, lo devo sistemare, dai una pulita, una cosa per vederlo bene all'interno, qua c'era qualche filo, non andava bene, e li sto spolverando, dai, li sto mettendo a posto. È bello che tu hai pochi baracchini, io ho visto che una ventina di baracchini può restare in pace, ma io devo poi dormire a scendere perché alcuni sono tipo il K440 che lo devo riprendere tutti i volta devo fare prove e ci metto anche un po' di tempo. E così sì, ma non ce ne ho più baracchini. Sono il re dei baracchini. No, già ne ho qualcuno, dai, questa è cosa vecchia che ti avevo da prima. Ah no, perché hai detto quello che la prima ne avevo solo due. Gigi, di modificati, che cosa ti è rimasto? Modificato c'ho quel tornado, il 48, e poi c'è qualche altro baracchino, dai, però non senza modifica. Cavagalo, e non li stai utilizzando? Quasi niente. Come mai? La passione ti è passata? No, già, non c'ho tempo, adesso vedi, c'ho cosa giù da sistemarmi velocemente, che ho lasciato il sorpreso perché ho messo l'antenna e li stavo provando questi baracchini, capito? Li stavo provando, ho fatto qualche lavoretto, dai, perché non erano... E stavo provando se stava uscendo bene, solo questo, dai, ho cercato di chiarire la radio e anche un altro ne ho qua portato di mano, che dove... però devo aprire e pulire dentro, l'ho solo aumentato di radio e basta. No, già va bene, dai, già va bene, non c'è problema. Mi è toccato l'LC, così è. È positivo. Può fare anche altre cose, anche il finale puoi cambiare, fare altre cose, dai. Bianco per me. Dai. Io adesso dovrei provare un microfono, un MBQ5, che gli ho cambiato la capsula, gli ho fatto alcuni lavoretti perché andava, diciamo, per la mia voce, il cappuccio da gamba non andava bene e lo devo riprovare. L'ho tutto quanto ripristinato, gli ho fatto tutti gli angolini consumati, li ho tutti quanti con uno stecchino, un po' di vernice, li ho tutti quanti tappati, è uscito bene, non si vede nulla. È positivo, questa è una cosa, non so se funziona, voglio provare una cosa, aspetta. Oh, Gianni, funziona ha voglia, c'è anche il checco. C'è anche un po' d'eco, vedere. Ora, eccola, l'ho messo sul lato, sì. Quel blacchino là, mi quel zodiac. Che microfono hai? Sono quelli per mettere il checco. Me lo do, tre, e dammelo uno che mi serve. Per il 300. Vado, le dà. Si è sparito in modulazione, si è abbassata, non sparito del tutto, si è abbassata la modulazione, è forte e poi di colpo si è abbassata. Gianni. La batteria è quasi scarica, sono anni che non la lavoro. Gianni. Ehi, avanti. Ehi, è Claudio, Saturo sono, no? Chi sei Claudio? Ehi, Saturo sono. Ah, un tantino compresso, ma non Saturo. Un tantino compresso, ma non Saturo, aspetta, che sto levando, ecco qua. E no, non so quanti watt prende d'ingresso. Adesso Saturo sono. No, no, da te Gigi come Claudio. Non ho capito. No, aspetta che c'è Gigi, così ti dà anche io un controllo di lontananza. Non vorrei che magari sia io che ti ricevo così. Gigi. Ea, ciao Cla. No, io adesso lo sto ascoltando bene, solo che c'è questo baracchinetto con la colonnina da una parte, ce l'ho tutta aperta la parte in su, dai. Non è che sia una granché, però l'ascolto bene. Oh Claudio, mi ho buttato giù l'antenna oggi perché ieri ho controllato che avevo un casino stazionario. Si è rotto, si è ossidato sopra dove c'è la molla e poi l'ho abbassata per attaccato lì. Capito, l'ho ritutta rifatta e messo una bella una tappetta, come si dice, che è polonata bene, ho provato, vedo che questa zona non ce ne sono più. Era sporcizia, boh. Ehi, ehi, è la stessa cosa ho fatto io ho finito stamattina il sistema dell'antenna, l'ho rifatto tutta nuovo, anche la cosa, tutta la bulloneria, tutta l'acciaio ho comprato. Tutto. Io non è che non c'era niente l'antenna, l'ho tolta perché ho cambiato di posto, capito? Ho cambiato di posto e quindi l'ho tolta per quello. Ho detto Gigi sono Saturo lì da te, va bene. Allora con questa cosa devo accendere l'altra, si sente un po' Saturo con questo, ma no, questo è un radionino di nulla, almeno stavo mettendo, ce l'ho aperto, c'è una colonnina che è smontata e non lo so, questo si sente un po' Saturo. A te accendo un altro, dammi tempo. No, non c'è problema. Adesso perché devo capire quanto ingresso prende, capito? Questo sto usando un Royce con un MB più 5, ho cambiato. Ieri c'era Voltane più 3. Adesso ho abbassato ancora di più la potenza, dai, anziché 6 watt ne ho dato 5. Com'è adesso? È ancora Satura? No, aspetta, io adesso ho commutato, ho preso un'altra cosa e ti sento una meraviglia. Non ho sentito il passaggio prima, perché stavo passando all'altra radio. Con questa ti sento una meraviglia, Cla. Ma me lo confermi, dai. Me lo confermi, puntello. Allora, questo è il primo passaggio con 5 watt di ingresso sull'amplificatore. Ok? Questo invece è il secondo passaggio con 6 watt d'ingresso sull'amplificatore. Cambia qualcosa? Ciao Claudio, sono tornato. Ciao Riccardino, come va? Ti ripeto, questo è il secondo passaggio con 6 watt d'ingresso sull'amplificatore. Questo è il primo passaggio, 5 watt d'ingresso sull'amplificatore. Secondo te quale va meglio? Ma va bene anche, tutte e due sono uguali. Sembra più forte leggermente con 6. però adesso la radio sta arrivando bene su questa radio qua, sull'altra no, perché se avete una scatoletta di sardine aperta, ce l'avevo aperta e ti senti un po' male. No, come state, cioè, quelli, diciamo, le colonnine esterne, quelle in alto, quelle buone, e ti sento proprio telefonico, un po' bella, la voce è bella. Sì, chi è che mi chiama? Buonasera. Quindi questo è il primo passaggio con 5 watt d'ingresso e questo è il secondo passaggio con 6 watt d'ingresso, non cambia niente? Vabbè, tu sei ad Alghero, Roberto, con la Sassari, sono molto più pignolo di te. Gianni Dr. Rum, tu mi senti bene? Così, primo passaggio, ti ripeto, primo passaggio con 6 watt d'ingresso su Royce, secondo passaggio con 5 watt d'ingresso. Mi senti meglio con 5 watt o con 6 watt? Con 5 watt, ma non cambia molto, Claudio, non cambia molto. Adesso sono col 3009, dai, come mi stai ascoltando? Benissimo, alla grande, non ci stanno problemi. Va bene, io non so, cazzo, dovevo chiudere, mi dovete dire che cosa devo fare, perché altrimenti qua è un casino. Allora, vediamo un po', devo chiudere la porta, scusate, che sono rientrati dal mare, questi c'è un casino nero, aspetta. Oh, finalmente, porta chiusa, sono per i cazzi miei. Allora, lo devo chiudere perché ho abbassato la potenza per poter usare anche l'amplificatore. Quindi, ricapitoliamo, questi sono 5 watt, 5 watt, ok, 5 watt con l'amplificatore inserito, adesso abbasso il trimerino, cioè sollevo il trimerino a 6 watt, sono sotto strumento, quindi non sto facendo doppio, ecco qua. Questi invece sono 6 watt con l'amplificatore inserito. C'è qualcuno che mi dice se noto differenza, perché se poi lo chiudo è un casino riaprirlo. Vi chiedo per cortesia, proprio, se c'è qualcosa che devo abbassare, ditemelo. Lascialo 5 watt, Claudio, la potenza che ci vuole per usare l'amplificatore. Lascialo 5 watt e sei a posto. Da 5 a 6 watt cambia, ma leggermente, è meglio 5 watt. Lascialo 5 watt che io addirittura lo porterei anche a 4,5 magari, invece che a 5. Esce meglio. Se tu lo devi usare sempre con la segretaria, è meglio che lo fai a 4,5. Se no, se lo devi usare anche così normalmente, lo lasci a 5 e ti va bene anche con la segretaria. Gappa, va bene, allora facciamo così, lo lasciamo così, mentre la tonalità mi avete detto che va bene, così è troppo brutta, non mi piace, la posso portare così, ecco qua, la tonalità lasciamo questa, allora ragazzi, va bene. Ehi, a che microfono stai usando? L'MV più 5. Cappa. E a quanto ce l'hai i toni? I toni ce l'ho a 1,5, come uso tutti gli altri, quasi 2. Questo Gigi è il microfono tuo, eh. È una bomba, ce l'ho a neanche a metà. Vabbè, questo è modificato, però, qua c'è il lavoro interno ed esterno, la capsula è molto buona, spinge che è una meraviglia. Ok, quindi Gianni, cosa mi dici? Io ti dico di lasciarla così la tonalità, se vuoi provare a spostarla per vedere se migliora o se peggiora, lo facciamo, però secondo me va bene così, prova a vedere, a alzarla di più, a vedere se va meglio o peggio. No, già, abbiamo già provato, guarda, così la chiude troppo, capito? Guarda quanto è brutto. Prova a parlare, a me mi sembra più bello invece così, prova. Ti toglie le, come si dice, i medio bassi, ti toglierà. No, era meglio prima, dai. Hai ragione tu, era meglio prima. Gigi. Ehi, sempre qua sono. Ascolta, tanto che ci siamo, dammi un controllino anche a questa che ho messo a posto, anche questa radiolina, sempre piccoline sono, è come l'Ara 48 però più piccolo, hai capito? Come va di radio questo? Ho fatto qualche cazzata o va bene? Va benissimo Gigi. No Gigi, va bene, alla grande non ci sono problemi. Ho provato a tirarlo su appena, guarda, così è troppo alto, no? Ora, troppo alto così, lo abbasso leggermente. Ok, va bene, allora io vi ringrazio. ringrazio per il momento e lo posso chiudere quindi questa radio. Roberto Verghero, lo posso chiudere questa radio? Va bene, allora lasciamo stare così, dai. Al limite si regola leggermente, dai, no, non ci sono problemi. Va bene così. Ok, grazie mille, la chiudo, ci sentiamo dopo allora, ciao a tutti, vai Gianni. Ciao Roberto, mi sentite anche a te, avanti di nuovo, doppio run da questa parte. Gianni doppio run sono, ciao Roberto, ma sì non ti ascolto, come mai? Vabbè, era interessante sentirsi. Gigi, allora me lo dai un M300 che mi sei detto un apparato che ce l'ho scoperto di microfono? No, negativo, perché... Allora, uno ce l'ho un paio d'anni che me l'ha dato a riparare e non si è fatto più vedere a ritirarlo. Due o tre me li ha regalati quello Antonello Nonna, che gli ho fatto dei lavori ai baracchini e me li ha regalati questi, e ce li ho quasi, era uno che sto mettendo a posto e li sto sistemando, ma non ne do, l'ho sempre dati, mi quasi dati a tutti, l'ho dati questi microfoni. E adesso me li tengo, non so cosa ne faccio, ma me li tengo. Di queste CTE ne avrò una ventina, minimo, senza, proprio una ventina. Vabbè, ho capito, non fa niente, non c'è problema, ce lo busco. Io questo qua l'ho fatto io il microfono, questo qui è un Proxel che ho adattato un'altra capsula e ho fatto dei lavori io. È positivo, vabbè. Vabbè, ma Roberto, non so io, con questo c'ha 2 watt solo, non so se mi ascolta con 2 watt Alghero, sera, è Vulcano qua, però sono 8 km da Porto Torre, sulla 131, ti sento proprio al limite, però io c'ho 2 watt di baracchino, non c'ho più di 2 watt di portante bianca, Sono molto molto anch'io, Roberto. Ti saluto anche a te, Gesù. Ciao Roberto. Va bene. Perché fai fatica ad ascoltare, Roberto? Non ho capito. Ho detto che fai fatica ad ascoltare. Va bene. Segnale com'è lì da te, Roberto? 9.15, 9.20. E anche tu sei molto alto il segnale. Beh, Alghero, io non ho avversari. Va bene, dai, metto a posto qua. Gigi, piacere averti ascoltato. Cerca di farti sentire più spesso, che sei un po' assente, facciamo i pensionati, noi siamo sempre in radio e tu non ci sei mai. Va bene, dai, cambio per Gianni, già ci sentiamo dopo, ok? Grazie dei controlli, dopo. Oh Claudio, mi sirvi, aspetta un attimo. Io sono qua. Oh Claudio, ti ho detto che ho messo l'antenna, però l'ho lasciata un metro più bassa, capito? Perché c'avevo bassa bassa per arrivare al radiale e funzionava benissimo. E allora, niente, l'ho sollevata, un metro più basso di come era il solito. Volevo capire, adesso questo è un baracchino che parte con 2 watt di importante bianca, poi c'è qualche picco modulato, se più o meno è, diciamo, sono sempre io così, dai, stiamo parlando solo di baracchino, Certo, se no te l'avrei detto, segnale il tuo, Gigi, non cambia, anch'io io ho sollevato di forse un paio di metri, magari qualcosa guadagno qua in città, così, nelle vicinanze, ma l'ho cambiata completamente di posizione, però l'antenna è sempre bella aperta da tutti i lati, capito? Non cambia niente, Gigi, lasciala stare così che vai bene, ok? Sei 595. Prova radio, come va? Aspetta, già, non ho capito, Gianni. Ho detto prova radio, come sta andando? Microfono male questo, No, questo qua è l'MP5 col Cobra. Potrebbe andare già, potrebbe andare, ma no, non sta spingendo molto, Potrebbe andare, però con la modulazione potrebbe andare. Io ho l'MB5 col mio Cobra e questo di Gigi è una bestia al microfono. Non so poi Gigi cosa hai fatto a questo microfono, perché batte il terne più 3 dal tavolo, lo creppa. Anche l'altro, l'Expander 500, gli altri due MB5 che ho. Una cosa pazzesca sto microfono, non so cosa cavolo gli hai fatto, che capsula gli hai messo, No, gliel'ho cambiata, quelle piccoline del telefono, quelle del coso, del telefono che diciamo una volta, quelle col coso, quelle col marchetto verde, questi piccolini, quelle lì gli ho messo. Una cosa strepitosa, ma gli hai fatto anche qualche lavoro all'interno, perché spinge un bel, va bene con tutte le radio, con tutte. No, non me lo ricordo, sull'MPU4 sì l'avevo fatto, avevo cambiato sia la cosa e quel, sai che quel lavoretto che si fa del Ponticello che ti dà una radio spettacolare, ti ricordi? No, lì gli ho cambiato, gli ho fatto quello lì e mi sembra che c'è qualche resistenza, qualche cosa gli ho fatto, dai, qualche cosa gli avevo fatto, però la cosa mi ricordo che l'ho cambiata, la capsula, capito? L'avevo buscato quei telefoni famosi e ne avevo tolto le cose e poi me le conservavo, dai, e le avevo cambiate e cambia. Con cambiando la capsula cambia parecchio. Dopo un radio proprio più bella, più corposa, più tutto, dai. No, ma c'è anche qualche, sicuramente qualche.